e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Maccherone, mai prorogato, io me ne magno. Cuore e denari Expo. Deborina, ci siamo lasciati alle spalle il Ferragosto, molti dei nostri ascoltatori saranno in vacanza, qualcuno sarà già sulla via del ritorno, qualcun altro invece avrà trascorso questo periodo a casa, nelle città che si svuotano e che hanno anche il loro fascino, diciamo così. È vero, qualcuno magari avrà colto l'occasione di visitare Expo Milano 2015, che come sapete ha vissuto proprio in questa estate 2015 la sua stagione unica e irripetibile di apertura, cogliendo fra i suoi padiglioni il mondo intero. E se non l'avete visitata, vi aspetta ancora fino al 31 ottobre. E visto che questo è l'anno di Expo e diciamo anche l'estate di Expo, abbiamo pensato di riproporvi in questi giorni di agosto il nostro progetto Cuore Denari Expo, un reality che ha visto come protagonisti 8 ascoltatori che appartengono a 8 categorie in cui tutti possono riconoscersi e in cui tanti ascoltatori si sono riconosciuti compilando gli appositi questionari che abbiamo pubblicato sul sito di Radio 24. Te li ricordi, Deborah? Sì, sì. Il sedentario, l'over 50, lo stressato e conviventi senza figli, la sportiva, la donna incinta, il vegetariano, la coppia con i figli piccoli. Per tutti loro abbiamo raccolto tanti consigli di Cuore Denari, consigli per la salute, l'alimentazione con i nostri nutrizionisti e i nostri chef, ma naturalmente anche consigli per risparmiare e fare una spesa attenta. Praticamente la filosofia di Expo noi l'abbiamo fatta nostra, l'importanza della nutrizione ma anche di un consumo consapevole e sostenibile. Allora, per riepilogare bene bene l'operazione, sul sito di Radio 24 trovate la sezione speciale Cuore Denari Expo, dove potete ritrovare tutti i consigli, le ricette, le liste della spesa raccolte settimana dopo settimana per ogni categoria. Ma in questa settimana estiva ritroveremo anche gli approfondimenti sui mestieri del cibo, no? Che sono molto interessanti, ecco. Abbiamo fatto degli approfondimenti, abbiamo scoperto dei mestieri del cibo molto particolari. Originalissimi, sì sì. Poi ci trovate i consigli, gli editoriali, come li abbiamo chiamati, firmati da tanti amici della nostra trasmissione. Insomma, è la strada scelta da noi di Cuore Denari per stimolarci, diventare più consapevoli di tutto ciò che orbita intorno alle filiere produttive e alle eccellenze italiane. Allora, quanto abbiamo chiacchierato? Partiamo allora, iniziamo con abbiamo lavorato anche tanto con questo Cuore Denari Expo. Allora, iniziamo con la prima categoria protagonista del nostro reality, quella dei sedentari. La capofila è Anna Maria e i tutor che seguono sono il dottor Filippo Ongaro, lo chef Stefano Polato e poi c'è il nostro compagno di viaggio dell'intero progetto Cuore Denari Expo, che è il dottor Attilio Speciali. Nella seconda parte della trasmissione porteremo Anna Maria a fare la spesa con l'aiuto di Luciano Mazzone, amministratore delegato di Clicca Promo Pazzi per le Offerte. Poi sarà la volta dei mestieri del cibo. Il primo protagonista è Francesco, lo ricorderete, personal trainer di Orti Urbani. In chiusura l'editoriale affidato proprio al dottor Speciani. Siamo pronti? Sì, via! Di oggi, come anticipato, è dedicata ai sedentari. Ci rivolgiamo quindi a 23 milioni di italiani, un target ampio e variegato. È una sfida, diciamola, abbastanza impegnativa, ma non impossibile. Per vincerla ci siamo affidati ad una coppia di esperti spaziali: il dottor Filippo Ongaro, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging, e lo chef Stefano Polato. In molti di voi hanno già aderito e qui con noi per darci il polso della situazione c'è il dottor Attilio Speciani, allergologo, immunologo a Milano, direttore scientifico di Eurosalus.com, che ospita i questionari sul suo sito, i questionari di Cuore Denari sul suo sito. Bisogna dire che le persone che sono rimaste, che evitano di fare, tra i sedentari ovviamente, quindi che evitano di fare attività fisica, sono il 43%, dicono che hanno mancanza di tempo e gli altri dicono per pigrizia, quindi c'è, cioè, interessante. Però devo dire che abbiamo una caratteristica che un po' identifica anche i lettori esperti di, gli ascoltatori esperti di Radio 24. Perché? Perché è una cosa che accomuna tutti, ad esempio dicono non sono soddisfatti della propria forma fisica, però ad esempio hanno degli elementi estremamente positivi, che sono

Andate a dare un'occhiata alla sezione Cuore Denari Expo sul sito di Radio 24 per trovare tanti, tantissimi consigli utili in tema di nutrizione consapevole e risparmio. Allora, che dire, appuntamento domani, sempre alle 11 con Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone con il meglio di Cuore Denari Expo.